nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 26 luglio, il sole in regione è sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.44. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. L'ERSA continua nelle sue sperimentazioni, anche orticole, e visti i cambiamenti climatici con stagioni sempre più calde, si è spinta a provare anche qui da noi l'ocra e la patata dolce, con due laureandi all'Università di Udine che stanno facendo la loro tesi in campo. È il tema dell'apertura di oggi, cui segue il corsivo di Enos Costantini, dedicato alle osterie che furono luogo di socializzazione e rifugio per intere generazioni, ma a quanto pare non se ne trovano più molte. Per la rubrica delle normative avremo poi le novità in fatto di vendemmia con i contributi per chi riduce le quantità di uva raccolta. Come conservare il prodotto dopo il passaggio in frantoio è invece il tema della rubrica che abbiamo dedicato a olio e ulivi. Nella rubrica dell'università uno studio che dovrebbe portare alla creazione di una app per monitorare e gestire i lavori in vigneto, mentre per lo spazio che dedichiamo ai giardini avremo una visita speciale dove per il benessere delle api si alternano campi di lavanda e fiori. In chiusura, come di consueto, l'andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Proseguono le sperimentazioni dell'ERSA in campo agroalimentare, in questo caso orticolo. Costantino Cattivello, vecchia conoscenza di Vita nei Campi, sta seguendo due laureandi all'Università di Udine. Cosa state facendo? Stiamo lavorando con l'intento di aumentare la biodiversità alimentare con l'introduzione di nuove specie adatte a questo territorio. Di cosa si tratta? Ocra e patata dolce. E adesso andiamo a incontrare questi due laureandi che ci spiegheranno meglio di cosa si tratta. Laura Misson segue il lavoro sull'ocra. Innanzitutto, cos'è l'ocra? L'ocra è una pianta annuale, viene dalla famiglia del cotone. Noi mangiamo il frutto, con il quale si può fare buonissimi piatti. Si può fare il frutto fritto con la pastella, come le verdure pastellate. Oppure si può mangiarlo anche cotto, come le tegoline, ad esempio. Oppure si può fare anche un soffritto di cipolla e ocra, aggiungendo qualsiasi cosa, dal tacchino al pollo, insomma sta bene tutto. Da dove arriva? È qui, cresce bene? Naturalmente arriva dai paesi orientali. Qua bisogna trapiantarla, seminarla da maggio, dove ci sono le temperature naturalmente più calde. Poi dipende dalla stagione e si raccoglie tutto il mese di estate a giorni alterni. Necessità orticole? Non ci sono grandi necessità, ovvero è una pianta, almeno da quello che stiamo studiando, perché tutto sommato è ancora in studio, è piuttosto robusta. Naturalmente sono importanti le temperature elevate, quello è certo. Ha un'ampia gamma di commercializzazione. Sì, secondo me sì, per me ci sono molte persone che tutto sommato anche la loro curiosità può spingere ad assaggiarlo. Cioè, nel senso, sia fatto per una popolazione che arriva dall'Italia, secondo me, che tutto sommato bisogna tenere conto, sia anche una popolazione che può essere curiosa. Io, per esempio, il sushi non è riconosciuto, adesso lo mangiano quasi tutti. Che proprietà ha? È molto ricco di calcio, presente molta acqua ed è molto importante anche per le donne in gravidanza, perché è presente acido folico e quindi, come sappiamo, per le donne che sono in gravidanza è un aspetto molto importante. E per di più elimina l'eccesso del colesterolo cattivo. Alex Bunello invece si occupa della patata dolce, altrimenti conosciuta come batata. Ma è una patata o qualcos'altro? Non è una patata, perché? Perché appartiene a una famiglia botanica diversa rispetto alla patata e anche le sue esigenze culturali e climatiche sono un po' diverse. Infatti necessita per crescere di climi diciamo più caldi. Infatti il suo trapianto viene fatto a fine maggio e la raccolta poi viene fatta più tardi, verso ottobre. In Italia non è molto diffusa, si stanno provando delle coltivazioni in Veneto, comunque in aree ristrette. Caratteristiche e proprietà, iniziamo da quelle di cucina. Rispetto alla patata non è molto diversa, perché può sostituirla in tutti i suoi usi, quindi si può fare cotta, si possono fare gnocchi, inoltre si può anche consumare cruda, però deve essere sbucciata. Quali sono le sue proprietà? Di cosa contiene, sì, di buono? È molto ricca in fibre, in sali minerali e anche molto ricca in vitamine, in particolare la vitamina A. E poi contiene anche antociani e flavonoidi che sono importanti antitumorali e anche sostanze che vanno a proteggere il sistema cardiocircolatorio. Esigenze colturali, è difficile da far crescere? No, è una pianta resistente, però necessita di climi caldi. Infatti viene trapiantata da fine maggio in poi, raccolta più tardi verso ottobre e può essere all'interno di un sistema colturale inserita in rotazioni ampie per migliorare la biodiversità agricola. Inoltre è una pianta resistente dal punto di vista dei parassiti, quindi inserita in rotazioni permette un maggior controllo dei patogeni e delle erbe infestanti. Resa, converrà allevarla per una resa, diciamo, sia quantitativa che anche da un punto di vista economico? Allora, per quanto riguarda la resa, possiamo dire che è paragonabile alla patata. Non sappiamo ancora bene come si comporta qui in Friuli. Ci sono delle coltivazioni in Veneto, però non abbiamo dati ancora certi, perché appunto in Friuli è il primo anno di sperimentazione. Osteria, casa mia, era un vecchio modo di dire, ma ci riconosciamo nelle nuove osterie, sono ancora luoghi di socialità. Sentiamo come la pensa Enos Costantini. Entravi scendendo tre scalini. Sulla destra c'era un ruvido tavolaccio, dietro il quale c'erano lui e lei, settantenni dal pronto sorriso. Dietro lui e lei, due damigiane, una di bianco e una di nero. Di fronte c'era un fogolar con panca, qua e là dei tavoli imbibiti, o meglio, imbombati di rosso scuro, il troppo pieno sfuggito a tremolanti o golose o assetate impazienti mani. Sedie impagliate manzanesi, piuttosto rustiche, ma dalla seduta familiare, completavano l'arredamento. Il vino era spillato in boccali assai vissuti e veniva bevuto in bicchieri, tacis. Da un ottavo. Ci si andava raramente, tra un esame universitario e l'altro, nei primi anni 70. Si beveva, si chiacchierava con lui e con lei, si muovevano le braccia del fogolar, si rideva, si scherzava, si mangiava qualche uovo duro, qualche etto di salame per sotto e soprattutto si cantava. All'epoca i giovani cantavano. Come non ricordare Mariute Saludilu Saludilu Calvà, uscito dall'ugola di chi pur amava i Beatles e i Rolling Stones. Presi da altri interessi, non solo di studio, trascurammo per un certo lasso di tempo quel luogo di serenità e di felicità. Una sera, e credo fosse per festeggiare uno degli ultimi esami, ci tornammo allegri come non mai, con me che facevo da battistrada. Entrai e mi diressi sulla destra per salutare i settantenni dal bel sorriso. Ahimè, avevo sbagliato locale e uscii immantinente. «Non è qui», dissi, «abbiamo sbagliato». Però guardammo la via, controllammo il portale e tutto corrispondeva. Entrammo in massa costernati. A destra un banco moderno tutto lustro e tutto lindo. Dietro il banco un lui e una lei poco più che nostri coetanei, ma poco sorridenti. Dietro lui e lei una specchiera luccicante con tante mensolette con tante bottiglie. E il fogolar? Il fogolar era un forno per la pizza. Uscimmo. Uscimmo come esce il gas ruminale da una vacca triste. Ci fermammo su quella via in pendio di una ridente cittadina collinare a guardarci negli occhi umidi di delusione. Voi direte che sono nostalgie di gioventù. No, quell'osteria era il futuro che avrei voluto per i miei figli e per i miei nipoti. Un mese fa abbiamo discusso della distillazione in momenti di crisi. Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia, ci parla oggi degli aiuti ministeriali alla riduzione delle produzioni di uva da vino. Innanzitutto c'è da dire che in Friuli Venezia Giulia le cantine che hanno aderito alla distillazione di crisi si contano sulle dita di una mano. Come avevamo previsto, un po' per le difficoltà burocratiche, un po' per l'esiguità dell'aiuto, nella nostra regione questa misura si è rivelata totalmente inefficace a eliminare le giacenze di cantina che purtroppo si sono accumulate durante la crisi del Covid-19. In questi giorni però è stato attivato un intervento per la riduzione delle rese che speriamo possa avere maggiore fortuna e le domande dovranno essere presentate presso i centri di assistenza agricola entro il prossimo venerdì 31 luglio. E come funziona questo regime di aiuto? In pratica la misura prevede la concessione di un aiuto a superficie a quelle aziende che per la prossima vendemmia si impegnano a ridurre almeno il 15% la resa di tutti i vigneti destinati ad DOC e GT rispetto alla resa media aziendale storica. Contestualmente però l'azienda non potrà aumentare la resa delle uve senza DOC e GT, cioè i varietali e i vini da tavola. La riduzione potrà avvenire o attraverso l'eliminazione fisica dei grappoli prima della maturazione, oppure, molto più semplicemente, attraverso la mancata raccolta. E il mantenimento dell'impegno sarà verificato a dicembre confrontando le dichiarazioni di raccolta del 2020 con quelle delle ultime 5 campagne. In termini economici, di quanto stiamo parlando? Allora, il contributo è stabilito in misura fissa pari a 500 euro a ettaro per gli IGT, 800 euro a ettaro per le DOC e 1100 euro a ettaro per DOCG, prendendo come riferimento le superfici rivendicate nella vendemmia del 2019. Il conto economico non è semplicissimo. Semplificando al massimo, se noi ipotizziamo per una superficie DOC una resa storica di 100 quintali ettaro con un impegno a ridurre del 20%, per quei 20 quintali ettaro di abbattimento di resa otterremo 800 euro, pari a circa 40 centesimi al chilo di uva, che, vista la situazione di mercato, cominciano a essere interessanti. Naturalmente poi dipende dalla varietà di uva e dai suoi prezzi medi di mercato. Ma ci saranno risorse per tutti? Il governo ha stanziato 100 milioni di euro, con un aiuto medio di 800 euro per ettaro si riuscirebbe a soddisfare 125 mila ettari di richieste, che sono circa il 25% delle superfici DOC e GT in Italia. In ogni caso, qualora le risorse non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà data priorità a chi si impegna per una riduzione percentuale maggiore e a chi presenta rese medie storiche aziendali più basse. E qui, forse, le cantine del Friuli Venezia Giulia hanno qualche chance in più rispetto a quelle delle altre regioni. Ottenuto l'olio in frantoio, arriva il periodo e gli accorgimenti necessari per la sua conservazione. I consigli di Ennio Scarbolo, che ci cura questa rubrica. Siamo entrati al frantoio con le olive nelle cassette e usciti con l'olio. In quale contenitore lo abbiamo riposto? Vetro sarebbe ideale, ma è fragile e si può rompere facilmente. Taniche di plastica per alimenti sono molto comode, leggere, robuste, ma di difficile lavaggio. Contenitori di acciaio con una capacità di 25-30 litri sono i migliori. Facile trasporto, non si rompono, si lavano facilmente, ma sono costosi. Il lavaggio e sgrassaggio dei contenitori si fa con una soluzione di soda. Si acquare molto bene. Assolutamente non usare aceto. Conferisce all'olio il difetto di avvinato inacetito. I principali nemici di tutti i grassi, solidi o liquidi, di origine animale o vegetale, sono in primis la luce, l'acqua, la temperatura di conservazione e la pulizia dei contenitori durante lo stoccaggio. L'olio di oliva va conservato al buio, nei contenitori di acciaio inox, come le botte di vino, ad una temperatura costante del locale di 12-16 gradi. Dopo i primi 20 giorni di conservazione va fatto un travaso separando l'olio da eventuali residui organici e l'acqua che si sono depositati sul fondo dei contenitori. Nel vino si chiama feccia, nell'olio morchia. È un grave difetto. Fatta questa operazione, l'olio rimarrà nel contenitore fino al filtraggio prima del confezionamento e la vendita. In grandi aziende il filtraggio avviene con filtri a cartone sterile. Per il consumo proprio è sufficiente travasarlo dopo 20-30 giorni dalla molitura delle olive. Mentre l'olio depositato sul fondo si può filtrare con un panno di cotone che trattiene le impurità. Tutti questi accorgimenti servono a conservare e mantenere inalterato il gusto dell'olio il più a lungo possibile e a ritardare l'ossidazione dei grassi. Come già detto, l'alterazione inizia già quando le olive a maturazione avanzata sono ancora sulle piante. Questo processo è inarrestabile. Da qui il detto olio giovane, vino vecchio, ossia consumare l'olio di annata prima che il tempo si deteriori, a differenza del vino che invecchiando migliora. Per la rubrica dell'università e della ricerca, oggi con il professor Francesco Danuso, che all'Università di Udine insegna agronomia e coltivazioni erbacee, parliamo di un sistema decisionale per valutare le finestre temporali disponibili per le diverse operazioni colturali in vigneto. È un sistema ancora, come si suol dire, work in progress. Cosa ci possiamo aspettare, professore? Intanto direi che questa ricerca la stiamo portando avanti con il professor Perger di meccanica agraria. Il problema nasce dal fatto che la variabilità climatica e anche in prospettiva dei cambiamenti climatici, il tipo di terreno, lo sviluppo fenologico delle piante interagiscono determinando la possibilità di entrare nel terreno, ad esempio con il terreno troppo umido non si può entrare per lavorare, ma anche certi tipi di trattamento si possono fare solo in determinate condizioni, ad esempio i trattamenti con fitofarmaci non devono essere fatti in condizioni di vento oppure cose di questo genere. Quindi ci sono aspetti che interagiscono di clima, di tipo di terreno che può trattenere più o meno l'acqua e di sviluppo delle piante che determinano la possibilità o l'impossibilità di entrare nel terreno a lavorare. Quindi questo determina un rischio di impossibilità di effettuare in tempo utile gli interventi colturali come sfogliatura, trattamenti fitosanitari, eccetera. Questo come si risolve? Si risolve incrementando il parco macchine, ad esempio, ma questo determina una problematica di tipo economico, maggiori costi fissi. Allora, quello che abbiamo fatto è stato quello di creare un sistema informatico che usa dati climatici, dati del suolo, modelli di simulazione dello sviluppo della vite e modelli che simulano l'umidità del suolo per valutare i tempi utili disponibili in ogni specifica condizione di clima, terreno e vitigno. Potrebbe uscirne un'app, quindi? Sì, certo, l'idea è questa qui, un'app che potrebbe essere utilizzata per pianificare l'impianto dei vigneti oppure per valutare l'economicità di espandere il parco macchine oppure di usare una certa combinazione piuttosto che un'altra di coltura in base al terreno, in base al clima. Franca Merluzzi oggi è andata in un giardino speciale dove per il benessere delle api ci sono campi di lavanda che si alternano a quelli di fiori. Una quarantina d'anni fa Sergio Mucchiut si è avvicinato all'agricoltura biodinamica. Fu uno dei primi qui in regione ad aderire alla corrente di pensiero e di pratiche che si prefiggono la fertilità della terra basandosi su energie e forze che vivificano il suolo, osservando i cicli lunari e utilizzando concimi naturali. Ad Aiello Sergio ingrandì il suo frutteto, mantenne l'orto, piantò erbe officinali e rosai e sul prato fece razzolare galli e galline, efficaci nel contenimento degli insetti nocivi. Nel 1987, per favorire l'impollinazione, introdusse l'apicoltura, tenendo in media una decina di arnie. Di recente ha aggiunto un alveare solare realizzato in paglia di segale di forma ovale e a punta in giù, vuoto all'interno dove le api costruiscono da sole i favi. Le api fanno tanto per noi, dice spesso Sergio, e noi cosa facciamo? Sottraiamo loro cibo. Alla produzione del miele lui ha sempre anteposto il benessere delle api e con questa logica 15 anni fa mise a dimora 5.000 piante di lavanda. La fioritura di mezzo ettaro di lavanda è spettacolare. La mietitura si è svolta in parte a macchina e in parte manualmente la scorsa settimana. A questa giornata di lavoro e di festa hanno partecipato gli amici di Sergio, venuti anche da fuori regione e dalla Slovenia. Sono persone che condividono lo stesso approccio alla terra e ascoltarli è molto interessante. Previdente, per aiutare le api ora rimaste senza lavanda, ha seminato un miscuglio di una cinquantina di tipi di fiori. Ma nonostante tutti gli accorgimenti, Sergio si accorge che negli ultimi anni le api hanno comportamenti insoliti. Sciamano tante volte, producono meno miele e qualche famiglia muore improvvisamente. Il campo giardino di Sergio è visitabile in occasione di giardini aperti, ma lui è sempre disponibile all'accoglienza, specialmente delle scolaresche. Con piacere nota che arrivano famiglie giovani con figli piccoli che comprendono e apprezzano il significato del suo lavoro. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, avvenute ancora attraverso videoconferenze. Il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,30 e 17,50 euro al quintale IVA esclusa. L'orzo con peso specifico 60-63 tra 13,50 e 14 euro. E il frumento nuovo raccolto tra 16,90 e 17,20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 70 centesimi e l'orzo è diminuito di 1,80 euro al quintale. Scambi attivi all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in buona evidenza. L'insalata gentile, la lattuga a Trocadero, le zucchine e le melanzane tonde vengono quotate all'ingrosso tra 0,80 e 0,90 euro al chilo IVA esclusa. I peperoni gialli e rossi tra 1,20 e 1,40, i pomodori in grappolo tra 1,10 e 1,20, la scarola riccia tra 2,30 e 2,50, i cavoli tra 1,40 e 1,50, il radicchio rosso tondo tra 1,30 e 1,40, quello di Treviso precoce tra 2 e 2,20, le patate fra 0,55 e 0,65, le perette tra 1 e 1,50, le fragole da 7,50 a 8 euro, i meloni tra 1,10 e 2,40, le pesche e pesche noci tra 1,80 e 2,80, le albicocche da 2,80 a 3,50 e l'anguria da 0,30 a 0,80. Nel settore della pesca la settimana è stata discreta, con un pescato proficuo e prezzi stabili. Alla cooperativa pescatori San Vito di Melano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, vengono quotati da 27 a 36 euro al chilo IVA esclusa, le ombrine da 13 a 25, i latterini da 10 a 12, i gamberetti da 15 a 20, le sogliole da 7 a 25, i manzancolle da 14 a 20, le seppie da 12 a 15, i calamari e i calamaretti da 19 a 24, i cefali da 2 a 6, le passere da 12 a 16 e le capesante da 10 a 15 euro il chilo, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 15,58 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Dopo alcune giornate che hanno confermato la tendenza fin qui rilevata di un'estate più fresca e instabile del solito, le cose tendono a cambiare, ovvero siamo alle soglie della prima ondata di caldo della stagione. Responsabile sarà un anticiclone di origine africana che si affermerà da lunedì e per qualche giorno relegando il flusso perturbato atlantico alle latitudini centro-settentrionali europee. Ecco che domani e martedì saranno due giornate di stampo estivo in prevalenza soleggiate, con qualche cumulo pomeridiano in montagna. Farà caldo, specie il pomeriggio, e in pianura, dove si raggiungeranno e supereranno i 32 gradi, mentre la costa beneficerà della brezza di mare, che terrà le massime sotto i 30 gradi. Mercoledì e giovedì l'atmosfera si farà più umida e il caldo più afoso, con massime sui 33 gradi in pianura, vicino ai 30 anche sulla costa, e minime in genere sopra i 20 gradi. Di pomeriggio si svilupperanno nubi imponenti sui monti, capaci di produrre qualche temporale, innescato anche grazie a un debole fronte che passerà sull'Europa centrale. Specie giovedì, i temporali potranno interessare anche la pianura. Nelle ore serali, il caldo afoso si farà sentire maggiormente lungo la costa. Venerdì e nel fine settimana il tempo sarà nuovamente più stabile, ma farà ancora caldo. Tuttavia, viste le incertezze a medio termine, vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti a cura di Osmer Arpa sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: se al plu fil di Sant'Anne, gli è tante mane, ovvero se piove il giorno di Sant'Anna, il 26 luglio, è tanta manna, ovvero tanta abbondanza. Coordinamento tecnico di Paolo Cassano, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica 6 settembre. Vita nei Campi, infatti, per tutto il mese di agosto va in vacanza. Buona estate a tutti. Avete ascoltato? Vita nei Campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.